facciamo ogni settimana dopo aver parlato di giovani, di giornata mondiale della gioventù. Ora uno sguardo all'interno del nostro territorio con le iniziative della Caritas. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Torniamo ad occuparci questa settimana delle iniziative della Caritas di Padova. Avevamo già parlato in precedenti puntate dei centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse. Partendo dal sito caritaspadova.it c'è una sezione apposita dove ci sono tutte le informazioni sui nuovi centri di ascolto, quelli già presenti da tempo e che anche recentemente si sono organizzati per svolgere diversi servizi. Ad esempio nel vicariato di Selvazzano ci sono alcuni servizi importanti che magari non sono conosciuti. Allora vi segnalo ad esempio la distribuzione alimenti che è attiva nelle parrocchie di Caselle, San Domenico, Sarmeola, Selvazzano e Tencarola. La raccolta di alimenti che è a favore delle famiglie bisognose nella parrocchia di Saccolongo. E poi c'è l'armadio della solidarietà solo per i residenti del comune di Rubano, nella parrocchia di Sarmeola, con la raccolta il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e la consegna il martedì dalle 15.30 alle 19. Il vestiario, anche questo è molto importante, è il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 nella parrocchia di Selvazzano, sempre a favore delle famiglie bisognose. Ma poi appunto c'è lo sportello stesso, lo sportello di Sarmeola, che è aperto il mercoledì dalle 9 alle 11 e quello di Tencarola invece il giovedì sempre dalle 9 alle 11. Centro di ascolto vicariale delle povertà e delle risorse. Le povertà ci sono, sappiamo che sono sempre più diffuse, ma ci sono anche le risorse, le possibili risposte a queste esigenze. Questo è uno, insomma, abbiamo citato il territorio di Selvazzano, ma sul sito caritaspadova.it c'è il censimento completo per sapere nella vostra zona quali sono gli sportelli attivi. Ricordiamo il fondo di solidarietà che riparte con questo mese di giugno, fondo straordinario di solidarietà che già molte risorse ha distribuito nel territorio e ripartirà proprio con questo mese, ma ne parleremo più avanti in un altro appuntamento. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. C'è un altro servizio importante, sempre più utile, quello degli avvocati di strada. Fino a poco tempo fa queste persone, professionisti appunto, che si mettono a disposizione gratuitamente, seguivano quasi esclusivamente alcolisti, tossicodipendenti, persone con qualche problema psichico o persone che avevano scelto la strada come casa. Oggi i senza fissa dimora sono anche giovani, separati oppure sopra i 45 anni, esclusi dal mondo del lavoro, ex imprenditori, persone frodate e imbrogliate da parenti o vicini. La strada sta cambiando come panorama e spesso sono queste persone a commettere dei reati, ma più spesso sono vittima di reati, aggressioni, molestie e anche atti di bullismo. Il rapporto delle attività 2012 degli avvocati di strada parla di circa 700 professionisti che gratuitamente accettano di difendere chi rischia di non aver nessuno dalla propria parte, un impegno che nobilita la professione forense e rilancia il valore della gratuità, che soprattutto nel tempo della crisi dovrebbe trovare tribune autorevoli, visibilità mediatica e sostenitori in ogni angolo del paese. Chi un tetto ce l'ha e ce l'ha sempre avuto forse non può capire, ma almeno può dare una mano. E allora vi segnalo altri punti: a Padova, presso gli uffici della Caritas, tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17.30, la Caritas in via Bonporti, e poi alle Cucine Popolari in via Tommaseo ogni giovedì dalle 9.30 alle 11. Ad Abano Terme, presso il Centro Aiuto alla Vita, ogni 15 giorni il martedì dalle 16.30 alle 18. e poi a Este, in provincia di Padova, solo su appuntamento, ogni mercoledì dalle 16 alle 18. Vi do anche due numeri di telefono, la segreteria dello sportello avvocato di strada di Padova, 345-68-45057, lo ripeto, 345-68-45057, oppure un numero fisso 049-821-0745, 049-821-0745. Risponde la segreteria sportello avvocato di strada di Padova. Segnaliamo anche la mail, che è padova@avvocatodistrada.it, e poi c'è il sito ufficiale, che è www.avvocatodistrada.it. È una onlus che si occupa appunto di tutela legale gratuita e qualificata alle persone senza dimora. Operano in tutta Italia e appunto ci sono anche questi sportelli a Padova, ma sono presenti anche a Vicenza, a Rovigo, a Venezia e in altre città del territorio. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.